Allora, cari ragazzi, c'è una grande discussione nel Talmud. Sull'acqua e poi abbiamo finito almeno. Fai la bracha sull'acqua e anche vogliamo dedicare la lezione in memoria di Alisa Cohen. Alisa Cohen. E in memoria di Shabbatai Sermoneta. Shabbatai Sermoneta. E Gam Nefesh Elisheva Bat. Diamante Moscato. Angelo. Vegam Nefesh Moscato. Angelo Mordechai Moscato. וגם נפש חנניה דינפי מנפי מנוחתם בגן עדן עפת לו ברכה? לא רפא, איפה הייתה? קום תקעמי פדריקו, פדריקו, ברכה אמן מולטו בן אלורה דיצ'בו צ'ה אונה גרנדה דיסקוסיונה נל תלמוד ריגוארדו אקומה דוברמו ג'סטירה אינוסטרי מועדים. Avete sentito il nome del grande maestro Rabban Yohanan ben Zakkai? No, credo che ne abbiamo già parlato, citato qualche volta. I suoi allievi erano i grandi maestri di Israele. Tra alcuni di questi allievi c'era una grande discussione su questo fatto qui del Moed. Su cosa si accentra la discussione? Rabbi Eliezer dice di Moed: la persona si deve comportare a secondo del suo livello, cioè se è una persona che è portata a studiare la Torah e che conosce la Torah e che la può studiare, dovrebbe occuparsi durante il Moed solamente di studiare la Torah. Chi non ha la possibilità, perché non è a quel livello, allora si occupi di mangiare, di bere, di godere il Moed in quella maniera. Rabbi Yehoshua, l'altro allievo di Rabban Yochanan ben Zakkai, compagno di Rabbi Eliezer, dice: non devi essere così estremo, o così o così. Si possono fare tutte e due le cose. Una parte dedicata ad Hashem, attraverso la tefilà e lo studio, e una parte dedicata al piacere materiale della giornata. Su cosa si basa questa loro discussione? La discussione si basa in realtà su quanto è scritto nella Torah. Nella Torah ci sono dei messaggi che potrebbero essere conflittuali. Perché? Da una parte la Torah dice Atzeret l'Hashem Elokecha, che il Moed è un Atzeret. Atzeret vuol dire un fermo, letteralmente. Come gli stop in Israele, cosa è scritto? Azor. Atzeret, un fermo. Fermo di cosa? Un fermo di quotidianità normale, come simile a Shabbat, un fermo di Melachah, un fermo di lavori creativi come Shabbat, eccetera. Ma è scritto Atzeret, un fermo, la Hashem Elokecha, perché tu possa, puntini puntini, per il Signore tuo Dio. Bravo. È scritto varie volte anche a Pinchas. Un altro versetto dice Atzeret Yelachem. Questo stesso Atzeret è Atzeret per chi? Non più la Hashem Elokecha per il Signore tuo Dio, ma Lachem per voi. Quindi fermate le attività normali per occuparvi di voi. Un versetto lo esprime in questa maniera e l'altro versetto lo esprime nell'altra maniera. Come vanno conciliati questi due versetti e queste due indicazioni? E da qui che nasce la discussione tra Rabbi Eliezer e Rabbi Yehoshua che noi leggiamo nel Talmud, nel trattato di Pesachim. Secondo Rabbi Eliezer, il versetto che parla del piacere personale, l'achem, per voi, parla a chi non può farlo in altra maniera, quindi le persone più semplici. E invece la Tzeret Lashem Elokecha, che è dedicato al livello più elevato, questo è per chi è di un livello più elevato. Rabbi Yehoshua dice no, entrambe sono indicazioni per tutti e bisogna un po' dividere la giornata, un po' così, un po' così. Ok? Ora la cosa interessante è che Rabbi Eliezer era davvero estremo in questa sua posizione, non solamente a livello teorico quando se ne è discusso nella yeshiva, ma anche a livello pratico. La Gemara descrive che lui davvero si comportava così. Quando era Moed, per lui era un giorno di dedicazione, di totale dedicarsi allo studio. Ma non solo. lui voleva che anche i suoi allievi si dedicassero insieme a lui tutto il Moed allo studio. E si descrive una situazione in cui Rabbi Eliezer stava studiando con i suoi allievi nel trattato di Beitza, nel Talmud si racconta, che stava studiando con i suoi allievi nel Beit HaMidrash, nella casa di studio, nella Yeshiva, e quando volevano andare a casa a mangiare, Moed, non un giorno qualsiasi, li fermava e diceva: dove vai? Rimani qua. Finché è uscito un primo gruppo che non ce la facevano più e sono andati a casa a mangiare. E Rabbi Eliezer ha detto: ah, guarda, questi sicuramente hanno grossi botti di vino a casa che li attendono, non hanno pazienza per stare qui, stanno pensando a quel buon vino che hanno messo da parte per il Moed. È uscito un altro gruppo dopo un po' di tempo di lezione e lui ha detto: ah, questi sicuramente hanno un vino un po' meno pregiato, però comunque no, ci vogliono arrivare a bere questo vino in questo Moed. Finché è uscito un terzo gruppo, un quarto gruppo, un quinto gruppo. Alla fine usciva il sesto gruppo, non veniva praticamente nessuno a lezione. E lui si è espresso in maniera molto forte. Ha detto: ma come? Ma non è una mitzvah di stare qui a studiare durante Moed? Anzi, secondo Rabbi Eliezer, la mitzvah di Simcha, di gioire durante Moed, quello che si intende per gioire è fare un bel pasto, bere un buon vino, riposare, eccetera. Quindi a livello materiale, il gioire a livello materiale, secondo Rabbi Eliezer, non è un obbligo. E come gioisci, se no? Secondo Rabbi Eliezer, con la Torah, secondo Rabbi Eliezer, la halakha non è così, la halakha finale. Però la sua visione era questa. Lui diceva: Simchat Yom Tov Reshut. La Simcha di Moed è Reshut. Reshut significa non è obbligatorio, facoltativo. È chiaro che se questa era la sua opinione, non è così strano se conosciamo meglio la figura di Rabbi Eliezer. Perché Rabbi Eliezer è una figura molto particolare relativamente allo suo personale studio e percorso nella Torah. Perché lui era una persona, tutti sanno Rabbi Akiva, che Rabbi Akiva non ha imparato niente, era analfabeta fino all'età di 40 anni. Ma non molti sanno che anche Rabbi Eliezer non aveva studiato nulla fino a 22 anni. Rabbi Eliezer era figlio di una famiglia importante, benestante a livello economico, a livello di lavoro, e doveva, per quello che era l'usanza, rimanere nell'azienda di famiglia e contribuire alla sua parte, eccetera. E chi studiava era chi aveva questa usanza di famiglia, non questa. Però lui in un certo momento, all'età di 22 anni, ha detto: io voglio studiare. Contro la volontà della sua famiglia è andato a Gerusalemme, è andato da Rabbah alla Yeshiva di Rabban Yochanan ben Zakkai, che dicevamo prima, e si è dedicato talmente tanto allo studio fino al punto che neanche mangiava. Fino al punto che, mentre studiava con Rabban Yochanan ben Zakkai e gli altri allievi, si sentiva un cattivo odore dal suo alito, perché mangiava quasi nulla, o mangiava quello che trovava, addirittura della terra che trovava, proprio niente. E Rabban Yochanan ben Zakkai ha detto: andate a vedere dove dorme questo, dove mangia, dove. Hanno visto che era proprio fuori da questo mondo. Allora gli ha detto, gli ha dato una benedizione, Rabban Yochanan ben Zakkai, gli ha dato una berakha, e gli ha detto: così come dal tuo alito è fuoriuscito un odore cattivo a causa di quanto ti sei dedicato alla Torah, così uscirà fuori da te un aroma, un odore particolarmente buono, l'aroma della Torah. Uscirà fuori da te, nel senso, arriverai a livello di essere una fonte di Torah in tutto il mondo. Non sto qui a raccontare adesso tutta la storia, però Rabbi Eliezer è soprannominato nella Mishnah, nel Talmud, Rabbi Eliezer HaGadol. Tra tutti i maestri grandi, lui è chiamato Rabbi Eliezer HaGadol, il grande Rabbi Eliezer, considerato il maestro dei maestri, il punto a cui è arrivato. E quindi secondo Rabbi Eliezer così si dovrebbe esprimere la simcha del Moed nello studio della Torah. Per lui la vera simcha di un ebreo è studiare Torah. Se non ce la fai, bevi un buon vino, almeno trovi qualche gioia nel Moed. Però l'ideale è questo. Ora la piccola sorpresa. Qual è la piccola sorpresa? Tutto ciò che ha detto Rabbi Eliezer riguardo il Moed e come va gestito e festeggiato il Moed riguarda Sukkot e Pesach. Pesach e Sukkot. Quando parliamo di Shavuot, anche Rabbi Eliezer è d'accordo con gli altri maestri e dice no, a Shavuot bisogna anche gioire a livello materiale per obbligo, non solamente facoltativamente, come diceva riguardo gli altri modi, ma per obbligo bisogna gioire bene con una bella bottiglia di vino e un buon pasto, perché il Lachem, gioire per voi, è scritto riguardo Shavuot e lì sono d'accordo che bisogna anche gioire in questa maniera. Non è molto più materiale Sukkot che Shavuot. Proprio questo che volevo dire. Sia Pesach che Sukkot sono dei modi in cui si festeggiano degli aspetti di salvezza materiale di Am Israel, perché sono entrambi legati alla Yetziat Mitzrayim, all'uscita dall'Egitto. Mentre invece Shavuot dovrebbe essere molto più spirituale come Moed, perché Shavuot si festeggia il dono della Torah. Allora, quello che lui diceva riguardo gli altri modin forse avrebbe più senso riguardo Shavuot. Eh? No. Ah, ok, pensavo avessi una domanda. Sì, chiunque ha una domanda può porla, c'è problema. Ok? A livello semplice Rashi dice nel Talmud, perché a Shavuot siamo tutti d'accordo? Perché a Shavuot bisogna dimostrare che siamo contenti di aver ricevuto la Torah. Siamo contenti di aver ricevuto la Torah, e che è un giorno di gioia, e questo deve essere espresso anche in maniera fisica, materiale, deve essere una gioia anche per il nostro corpo, non solamente per l'anima. Però, in teoria, come dicevamo e come chiedeva Ruben, forse il contrario sarebbe più sensata come cosa. Non solamente. Questa cosa trova espressione nella halakha in maniera sorprendente a Shavuot, non gli altri modi. Non so se sapete, esiste un concetto che non è molto comune vederlo messo in atto oggi, ma esiste come concetto. Si chiama Ta'anit Chalom. Sapete cos'è Ta'anit Chalom? Digiuno per il sogno. Bravissimo. Digiuno per un sogno. Significa se una persona ha fatto un sogno brutto e non si sente a proprio agio con questo sogno, lo vede magari come un segno negativo o cose simili di questo tipo, potrebbe volere accettare su di sé un giorno di digiuno, come per espiazione, diciamo, per l'eventuale problematica legata a questo sogno, un giorno di digiuno personale. Ok? È una scelta, non è un obbligo. Ora, di Shabbat e di Moed è vietato digiunare, perché ci sono diversi giorni, anche oltre Shabbat e Moed, che c'è un divieto di fare un digiuno come Hanukkah e Purim. Per quale motivo? Perché dovrebbero essere giorni di gioia. Se tu digiuni in questi giorni, non dimostri di essere gioioso. Però ci sono delle eccezioni a questa regola. In alcuni casi sarebbe permesso addirittura fare un Ta'anit Chalom, e cioè questo tipo di digiuno qua legato al sogno, anche durante i giorni festivi. Perché? Nel caso la persona fosse così agitata da non poter davvero vivere la simcha di quello Shabbat o del Moed, allora la halakha dice è meglio che fa il digiuno che fa il Moed tribolato. Abbiamo visto che se lo faceva di Shabbat poi recuperava in mezzo alla settimana. Bravo, poi doveva recuperare, bravo, deve digiunare per il fatto che ha digiunato di Shabbat. Simile, stessa cosa, sì. Però ecco l'eccezione di cui parlavo. L'eccezione è che a Shavuot è vietato anche il Ta'anit Chalom. Anche se sei agitato, Shavuot bisogna sottolineare la simcha in quella maniera di gioire anche con il corpo, cioè anche mangiare, ed è vietato anche nel caso estremo il Ta'anit Chalom. Questo è il giorno in cui è stata data la Torah. Tutti dobbiamo dimostrare, tutto Israele deve dimostrare di essere contento che è stata donata la Torah. E uno non può, diciamo, escludersi dalla collettività. Buonasera, caro. escludersi dalla collettività e dire tutti sono contenti, ma io oggi non ce la faccio. No, fai il digiuno domani. Allora, perché la Torah è legata proprio con il cibo? C'è qualcosa di profondo qua. Grazie. Prego. Non solo, a Shavuot, avvicinati, prego, mangia. Grazie. A Shavuot c'è, grazie, c'è anche la cosa di mangiare di latte, vero? Quindi non solo di mangiare, ma ci dicono anche le ricette, ci danno come dovete mangiare, per quale motivo bisogna mangiare di latte di Shavuot, chi lo sa? Ok, molto bene, adesso approfondiremo questa motivazione. Qualcuno sa qualche altra motivazione? È Minag o no? Scusa, è Minag, non è adattato. Io anche sapevo che era Minag. Momento di salsa. Bisognerebbe fare una lezione su cosa significa Minag e cosa significa Alaha. Ricordatemelo. Bisogna approfondire. È un minhag che va fatto, non è facoltativo. Non ogni volta che si dice che una cosa è minhag, significa che è facoltativo. Così si crede molto spesso, però vorrei davvero approfondire questa cosa per definire meglio cosa significa davvero minhag, cosa significa davvero halakha. A volte ci sono cose che sono halakha e non si mettono in atto, per prassi. E ci sono cose che sono minhag e si mettono sì in atto. In altre parole, c'è molto grigio, non è bianco e nero. Pure dei minhag sbagliati ci sono. Esistono anche i minhag sbagliati, certo. Quei bambini che dopo di Shabbat a pranzo fanno la doccia. Sì, però bisogna vedere se è sbagliato. Anche questo può... Ci sono tantissimi dettagli. Vorrei... ricordamelo, Ruben, vorrei fare una lezione su questo. Cioè, a Roma, che è diventato sì. Minag il mangiare separato carne e pesce. Mm-hmm. Nel senso, prima non era così. Carne e pesce non è, stesso piatto. Non è un minag a Roma. Carne e pesce è un halakha. È un halakha, non è minag allora. Carne e pesce è un halakha. Fatto tutto da solo. Tradotto come una tradizione, quindi locale. Cioè, nel senso, a volte sì, a volte sì. La parola minhag include tanti diversi tipi di comportamenti, ecco perché è anche valido quello che dici tu. Ma non tutti i minhagim si possono definire in questa maniera, quindi va tipo fatto... Tre ore soltanto qua, come diceva Michelle. Anche in Olanda. Anche in Olanda è 3 ore? Il resto dove? Sì. 6 ore. Ma di nuovo, questo è minhag di come applicare la halakha. E la tesa tra la carne e il latte è una halakha, non è una tradizione di famiglia, ok? Però quanto attendere dipende dal minhag, ovvero l'uso, come usiamo in mettere la halakha, capito? Cioè, sono cose che si sovrappongono, non è che sono due... Questa è la halakha, questa è la regola, e poi minagim, quello che ti piace fai, quello che non ti piace non fai. Non funziona così. Approfondiremo se Dio vuole. Davvero, per favore, ricordamelo, perché sai che me lo scordo. Ok, allora, torniamo a noi. Torniamo a noi. Dicevamo appunto che abbiamo l'usanza di mangiare di latte durante Shavuot. Un'altra piccola parentesi, il fatto di mangiare di latte durante il Shavuot non ci toglie l'obbligo di tutti i Moadim e Shabbatot di mangiare di carne. Significa che normalmente bisognerebbe fare comunque un pasto di carne. Uno dei pasti si fa di latte, a molti usano fare un piccolo pasto o mangiare qualcosina di latte, attendere un po' e poi fare il pasto normale di carne. Questa era un'altra parentesi, solo la sera però... si mangia latte. Eh? Solo la sera, sì. Alcuni solo la mattina. Questo si basa in base al minag, in base all'uso. Non potrebbe essere anche un po' collegato con la domanda di prima, che siccome la Torah non c'era, non c'è anche lo strumento per gioire, cioè abbiamo detto che la gioia deve essere interna, perché è derivata dallo studio della Torah. Non abbiamo la Torah per sapere che come si mangia la carne, alla stessa maniera possiamo non averla per sapere come si gioisce. Ok, beh, benissimo, ma adesso che ce l'abbiamo? Adesso che siamo già dopo il dono della Torah, cioè questo è valido finché la Torah è stata data, no? È quello che dico. Dici che ci ricordiamo di questo? Mangiamo il latte per ricordare che non c'è. Di come era prima che fosse stata data la Torah. Ok, interessante. Non gioiamo per ricordare come era prima. Sì, sì. Ma non è che non gioiamo, è che di Shavuot la gioia deve pervadere non solamente nello studio, ma anche nel esatto. Ora. Allora, ci sono diverse motivazioni per questo discorso del mangiare di latte, però volevo approfondire un po' questa motivazione qui che Gabriel ha accennato, e vi cito quello che è scritto nella Mishnah Berurah. Nella Halakha, nella Mishnah Berurah è scritto che quando il popolo ebraico si trovava davanti al Monte Sinai ed hanno ricevuto la Torah, e dopodiché cosa hanno fatto dopo la ricezione della Torah? Sono tornati a casa. E quando sono tornati a casa, a pranzo, no? Quando sono tornati a casa, non hanno trovato da mangiare se non che di latte. Per quale motivo? Perché avendo ricevuto la Torah, la carne richiede la shechita. La shechita attraverso una lama affilata e controllata nella maniera idonea per la shechita. E richiede il mangiare la carne, richiede il nikur. Nikur significa? Cosa significa nikur? Il nervo sciatico, il grasso, insomma. Eh sì, non è solamente il nervo sciatico, tanti punti di grasso che vanno tolti, che sono considerati taref. Il nervo sciatico è uno dei punti importanti, ma ci sono vari rami del nervo sciatico, diciamo così. Questo si chiama nikur. C'è da togliere il sangue, c'è da sciacquare, c'è da lavare, c'è da mettere il sale, tutte quante le cose che ci sono da fare, e bisogna anche cuocerlo in dei utensili, pentole, tegami nuovi, che non sono stati usati con una carne sulla quale non è stata fatta tutta questa prassi. E allora hanno deciso che, ok, oggi mangiamo di latte, in memoria, in ricordo di questo. In quello stesso giorno che viene il Shavuot, noi mangiamo di latte. Così c'è scritto nella Mishnah Berurah. Ora, scusate, però, il Rebbe pone una domanda in un suo discorso e dice: ma se non mangiavano kasher, significa che forse mangiavano anche carne e latte insieme? La Torah è appena stata data, non sapevano di Shechita tutto questo. Allora, se non sapevano niente, se questa è la base dalla quale partiamo, che non sapevano niente, ora, novità. Bisogna fare così e così, e allora la carne e il latte, anche sicuramente era mischiata, almeno nelle pentole, o in tutto quello che si usava. Allora perché si poteva usare qualsiasi cosa? Tutto quanto quello, i tegami, le pentole, gli utensili, le posate, tutto quello che c'è dentro casa, in teoria non è kasher, perché potrebbe essere stato usato per carne e latte, sia per carne che per latte. Allora spiega che il senso di quello che abbiamo visto nella Mishnah Berurah è più profondo di quello che pensavamo. E dice così il Rebbe: il senso non è che prima del dono della Torah mangiavano taref. Se noi andiamo a vedere tutte le fonti antiche, i Midrashim e tutte le cose che sono stati trasmessi per tradizione, noi vediamo che già Avraham, Yitzhak e Yaakov avevano queste indicazioni. È alluso anche quando Yitzhak dice ai suoi figli Esav, al suo figlio prima di tutto Esav, che lui credeva che era lui che aveva il diritto della primogenitura, la storia di Yaakov e Esav, Giacobbe e Esau: vai a prendere i tuoi utensili per prepararmi la cena. C'è scritto tutto questo e si allude lì nei Midrashim all'utensile particolare di fare la shechita, di preparare la carne in una determinata maniera, e troviamo varie allusioni di questo tipo anche quando vengono gli angeli a trovare Avraham quando stava male dalla Milà, i famosi tre uomini che sembrano angeli che sembrano uomini. E troviamo un'altra allusione a questo da Yosef, quando Yosef invita i fratelli che vengono in Egitto ad acquistare il cibo e non sanno ancora che lui è Yosef, e li invita a casa a mangiare a pranzo. C'è scritto che gli egiziani non mangiavano con loro e loro non mangiavano con gli egiziani. E usa il termine otevoach tevach, che è un termine simile a quello della Shechitah. Tutte le indicazioni dimostrano che già qualcosa si sapeva, o forse molto si sapeva. Perché se no sono ebrei? Cioè, perché se no sono ebrei da quando prendono la Torah, invece il popolo ebreo si definisce già da prima il popolo ebraico. Allora, questo anche è un fatto un po' tecnico, nel senso, tecnicamente è giusto dire che siamo ufficialmente ebrei dal momento del dono della Torah. Però è vero anche che c'è già un preparativo, diciamo così, prima. Ok? Allora cosa significa? Significa che può darsi che mangiavano tutto, e non solo. Si stavano già preparando per il dono della Torah. Avevano tante indicazioni, già lo Shabbat era stato dato prima, tante indicazioni erano già state date prima anche a questa generazione. Finita lezione. Ok. E digli che gli vogliamo bene comunque. Comunque, la lezione potrà sentire la registrazione, la lasagna è persa. Comunque, hanno fatto tutto ciò. Allora, qual è il problema? Se hanno fatto tutto ciò, potevano tornare a casa e mangiare? Torniamo al punto che Ruben ha sollevato adesso. Quale Shechitah è kasher? Quella fatta da un Yehudi? Da un ebreo? Tutto ciò che avevano fatto prima non erano ancora ufficialmente ebrei. Di conseguenza, anche se ci fosse la carne secca e le coppiette già pronte da prima, dovevano venderle a qualcun altro che era di passaggio, perché ormai non era più kasher per loro, non essendo stato preparato da Yehudim, erano le stesse persone, ma in realtà quello che è successo al momento del dono della Torah, sapete cos'è? È un processo di Giur. Quindi anche qui hanno fatto Giur? Sì. Noi tutti siamo prodotti di un Giur. Quindi anche la Milà doveva fare Giur? Esattamente. Dovevano fare la Milà. L'hanno rifatta. Tutti quanti. Non rifatta. Chi non l'aveva fatta la doveva fare prima del dono della Torah. Scusami, è lo stesso principio del cibo. No, non è lo stesso principio. Perché se prima hai cucinato la Milà prima. Però ti sei fatto fare una Milà da un moel non ebreo. Il principio è lo stesso. Chi dice che la Milà di un moel non ebreo non è kasher? Adesso non voglio aprire. Però non è la stessa cosa. È un buon punto, è un ottimo punto. Però il Giur si potrebbe anche fare con fasi. Significa se un candidato al Giur fa la Milà oggi, non significa che deve fare la Tevilà, quindi l'ultima fase, l'immersione nel Mikveh, non significa che deve farla subito. La Milà può essere in sospeso finché farà la Tevilà e sarà considerato Yudi. Questo è possibile. Quindi simile a questa situazione. La fase finale era per... avevano fatto la Milà, avevano fatto la Tevilà. C'è un'altra fase che esiste quando c'è un Bet HaMikdash o un Mishkan, che è il Korban, che deve portare un sacrificio, ma nella mancanza del Mizbeach non si porta, ed è valido comunque. E l'ultima fase è l'accettazione della Torah e le Mitzvot, che era il momento del dono e da parte nostra della ricezione della Torah. Allora, questa è la parentesi che chiudo perché l'ho aperta il discorso del Giur. Significa che noi abbiamo fatto il processo del Giur. E questo significa anche che oggi, come si fa il processo del Giur? Chiunque fa oggi il Giur fa lo stesso processo che noi facemmo in quel momento del dono della Torah e i momenti precedenti al dono della Torah. In altre parole, come facciamo a sapere come un non ebreo diventa ebreo? Semplicemente segue esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto noi in quel momento. Milà, Tevilà, accettazione di Torah e Mitzvot. Quindi un ebreo che è un ebreo da generazioni non è più ebreo di un ebreo che oggi è diventato un ger, un convertito all'ebraismo. Ha esattamente gli stessi diritti, gli stessi doveri. perché significa passare attraverso questo processo qui. Chiudo la parentesi. Allora torniamo a noi. Non avevano quindi la possibilità di mangiare di carne per questo motivo qua, un po' più profondo di quello che pensavamo prima, e hanno mangiato di latte. Ok? Allora, va bene, capisco che è molto importante quindi simboleggiarlo attraverso il mangiare di latte anche oggi e dedicare anche alla gioia del nostro lato materiale qualcosa per in onore di questo giorno. Ma perché è così importante, forse ancora più di altri Moedim, se davvero questo dovrebbe essere il Moed più spirituale, essendo il giorno del dono della Torah? Forse dovrebbe essere, come diceva Rabbi Eliezer, non dico all'estremo come lui, però almeno la maggior parte dedicata alla tefilà, allo studio, e un po' mangiare, sì, perché comunque non è Kippur, però... Allora c'è un approfondimento che va fatto a riguardo. C'era un Rav, si chiama Rav Efraim Shturem. Lui per tanti anni, sapete, in America c'è un'organizzazione che si chiama Young Israel, un'organizzazione modern orthodox che si occupa di... è una rete di Batei Knesset, di campeggi per ragazzi, Israel Azair, c'è anche in Israele un po', però è più una cosa americana. Una cinquantina di anni fa, forse un po' di più, si sono trovati a cercare di gestire una situazione difficile, in quanto molti dei ragazzi giovani che poi andavano in università, e negli Stati Uniti è molto comune andare all'università in altre città fuori da dove uno abita, va in un campus, non so dove, dove magari venendo da dei fulcri di ebraismo come può essere New York, New Jersey, eccetera, andando in questi campus perduti per tutti gli Stati Uniti e non trovando un'infrastruttura ebraica, si perdevano molti di loro all'ebraismo. E allora questo Rav, con il loro consiglio nazionale statunitense eccetera, hanno cercato di capire cosa potevano fare per migliorare questa situazione. E tra le varie cose che facevano, hanno detto: andiamo a sentire dei grandi rabbanim, grandi maestri a livello mondiale, e sentire anche da loro qualche consiglio. Sono andati da vari rabbanim e hanno sentito diversi consigli. Qualcuno ha detto: cercate di non mandare i ragazzi fuori. Ha detto: beh, non è così pratica questa cosa, non è così... Sì, per qualcuno può funzionare, ma per molti non è che ci chiedono se devono andare fuori o no, fanno quello che devono fare. E così via. Diverse idee. Sono venuti anche dal Rebbe. Il Rebbe di Lubavitch ha detto loro: guarda, vi do un consiglio. Dovreste cercare di creare una rete di mense kasher all'interno delle università, in modo tale che cosa succede in una mensa? Ci si incontra, ci si conosce, si mangia insieme. E allora si socializza, chi viene a mangiare kasher, ebrei vengono a mangiare kasher normalmente, si socializza in un circolo più ristretto, ebraico, e c'è meno rischio di assimilazione. È una cosa molto pratica, molto semplice, dagli da mangiare kasher, organizza. In molti campus negli Stati Uniti c'erano, oggi c'è Chabad in tantissimi campus, ma all'epoca non c'era, c'era Hillel è un'altra organizzazione americana. Fagli fare delle mense a queste organizzazioni. O collaborare con le università per creare degli angoli kasher nella mensa. Tante idee di questo genere qua. Gli ha detto: l'idea qui, quando a Shavuot noi festeggiamo appunto il dono della Torah, e potremmo essere un po' fuorviati pensando, il dono della Torah dobbiamo pensare solo al cielo, solo allo spirito, solo alle cose, illuminazioni, manifestazioni divine, cose spirituali. Effettivamente non è questo lo scopo del dono della Torah. C'è un famoso Midrash che racconta il momento in cui Mosè sale sul monte Sinai, perché? Per ricevere la Torah. E il Midrash racconta che in quel momento ci fu una protesta. Gli angeli protestarono quest'idea che la Torah sarebbe stata data ad un essere umano, che lui a sua volta l'avrebbe portata ad altri esseri umani. Tena hodecha la shamayim, che è un versetto dei Tehillim dove è scritto: fai che il tuo splendore rimanga nei cieli, cioè che la Torah rimanga nel suo giusto luogo, che è il luogo spirituale, che è il luogo più associato col divino, con l'illuminazione, con la spiritualità. Perché mandare un diamante, una cosa così particolare, un tesoro così importante sulla terra oscura, brutta, cattiva, corrotta? Lascia qui con noi angeli, esseri divini, spirituali. Allora il Midrash dice: HaKadosh Baruch Hu ha detto a Mosè, dagli una risposta. Cosa risponde Mosè agli angeli? Conoscete questo Midrash? Non vi serve voi. Cosa gli dice? Che ci fate? Bravissimo. Gli dice così, per esempio. Gli dice: ok. Oh, sono arrivato prima io. Guardiamo cosa è scritto nella Torah. È scritto nella Torah: io sono il Signore tuo Dio che ti ho tratto fuori dall'Egitto. Siete forse stati in Egitto? Angeli, siete forse stati in Egitto? Onora i tuoi genitori, tuo padre e tua madre. Avete forse dei genitori? E così via, no? Tutte le mitzvot. È un midrash interessante e carino, ma anche molto strano. Perché se gli angeli apprezzavano la Torah, significa che sapevano cosa è scritto nella Torah. Se sapevano queste cose che Mosè mette a rilievo, pone al loro rilievo, allora qual era il loro pensiero originale? Se è chiaro che la Torah parla ad Am Israel, qual è questa idea? Lascia la Torah qui. Tutto lo scopo della Torah è abbastanza evidente, come Mosè in questo Midrash spiegava, è quello. Allora cosa significa lascia la Torah qui? Qual è il loro pensiero? Farla contaminare. Il loro pensiero, possiamo dire, è che tutto ciò può esistere in un piano, su un livello incontaminato, cioè spirituale, teorico, e dove non sarà corrotto in minima maniera, rimarrà una cosa divina e non sarà appunto in qualche maniera contaminata o corrotta o capita male, eccetera, eccetera. Cioè, tutto ciò esiste, ma esiste perché tutto ciò che esiste nel concreto esiste anche nella teoria, esiste anche tutto ciò che esiste nella materia, esiste nello spirito. Allora, forse è inteso solo in senso teorico, come possiamo dire di tante cose, a volte ci fa comodo. Sì, è scritto così, però in teoria, in pratica, si fa così. Una cosa molto comune come impostazione mentale. Invece Moshe Rabbeinu stava dicendo loro: non avete capito. Lo scopo della Torah è che arrivi in questo mondo, che sia preso da persone assolutamente limitate, assolutamente con i loro limiti, con i loro fallimenti, con le loro problematiche, con tutto quello che vuoi, ed è questo lo scopo della Torah. Che una piccola luce illuminata attraverso la Torah in un'oscurità come questa vale molto di più rispetto a quello che già è scontato come illuminazione in una sfera più elevata. Non è questo il punto della Torah? Lì è comunque tutto elevato. Lì è comunque tutto puro, lì è comunque tutto corretto e giusto e chiaro, illuminato, eccetera. Tutto il punto e lo scopo è che la Torah possa essere data a noi e che noi potessimo usare la Torah non per diventare degli angeli, ma per diventare delle persone migliori, cioè rimanere persone che vivono la materia, che vivono con il corpo fisico e materiale e mangiano quella lasagna e un buon bicchiere di vino, trasformandolo in qualcosa di Kedushah, con uno scopo più elevato rispetto alla semplice lasagna, rispetto alla mera alimentazione del corpo, diventa un'alimentazione dell'anima, diventa un'energia che poi, quando impiegata per un motivo più elevato, per uno scopo più puro, anche quella materia diventa elevata, diventa una parte di quello scopo. E questo è davvero per il motivo per cui la Torah è stata data. Ed ecco perché a Shavuot, proprio a Shavuot, che è il giorno del dono della Torah, l'Alachà ci insegna, va festeggiata proprio anche in maniera di godimento, di piacere fisico e materiale. Cioè proprio per indicare che la Torah è stata data. È stata data significa ha Torah lo bashamayim hi. La Torah non è più nei cieli, ma la Torah è proprio sulla terra. La Torah è data in mano a noi e in un certo senso noi abbiamo la responsabilità di far sì che questo aspetto della Torah sia valido. Perché se diciamo la Torah è molto sacra, lasciamo là, sta dentro le chal, bella buona, non la disturbiamo, è perché è una cosa divina, è troppo elevata. Noi siamo esseri che non siamo in grado di gestirla. Se così fosse, è come se la Torah non fosse stata data. La Torah è stata data significa è stata data in mano vostra. In mano vostra vuol dire secondo i parametri, secondo le regole, le impostazioni che la tradizione ci insegna, però è vostra da gestire. Dal momento che è nostra da gestire, significa che va gestita secondo i parametri che la Torah dice sono quelli che questo mondo dovrebbe seguire, che noi esseri umani dobbiamo seguire. E quindi a Shavuot, sì, studiamo la Torah, sì, la approfondiamo, sì, gioiamo con lo studio. Infatti sì, l'usanza, il minag, di rimanere svegli tutta la notte della prima notte di Shavuot a studiare la Torah. Chi viene? Noi organizziamo, famo after. Tikkun. Sì, lo so. E al tempo stesso, per concludere, bisogna prendere quella botte di vino. Bisogna gioire anche materialmente, nella maniera giusta, perché questo è lo scopo del dono della Torah, trasformare la materia in Kedusha. Shkoya.